Tiziano. Capitolo 19. Padova, 22 gennaio 1547. Ieri ho domandato a un bambino di 5 anni chi fosse Gesù. Sapete cosa ha risposto? Una statua. Molti incuriositi, appena illuminati dalla candela, una dozzina di studenti stretti intorno al lume, gli unici a sfidare il sonno e le rigide regole del convitto. Un paio li ho conosciuti questo pomeriggio, al gabinetto anatomico, dopo la lezione di teologia. Poche chiacchiere nei corridoi sono bastate perché mi proponessero di seguirli al convitto dei Benedettini per passare la notte. Cos'è il Cristo per una mente semplice? Una statua. È una bestemmia questa? No, perché le manca la volontà di offendere. È la menzogna di un ignorante allora? Nemmeno. Io vi dico che quel bambino non ha mentito, anzi, ha detto la verità due volte. La prima, perché davanti ai suoi occhi, mentre lo addestravano a inginocchiarsi, c'era un crocefisso di pietra. Cosa infonde vita a quella pietra? Cosa la rende diversa dalle altre? La conoscenza di ciò che rappresenta, la conoscenza, ciò che dà un significato alle cose, al mondo e anche alle statue. Dunque, per far vivere quella statua, dobbiamo conoscere il Cristo. Possiamo dire con poche e semplici parole chi sia il Cristo? Sì, amore e grazia. È Dio che per amore degli uomini si immola sulla croce, graziandoli del peccato, salvandoli dalle tenebre. E la fede, in questo solo atto, giustifica gli uomini davanti a Dio. Questo è il beneficio che Cristo ci porta, il beneficio di Cristo. Se dunque conoscenza e amore fanno vivere quella statua, nostro compito è di coltivarle come il più prezioso dei doni e di fuggire, anzi, combattere chi ci allontana da esse. Questo ci porta alla seconda verità del bambino. Oggi davvero assistiamo all'agonia di Cristo. Né con l'amore né con la conoscenza la Chiesa rende vivo il Cristo a cui accosta i fanciulli. Esso diventa ubbidienza incondizionata all'autorità secolare, alla gerarchia corrotta di Roma, al Papa simoniaco. Diventa paura del castigo divino messo in scena dal Sant'Uffizio. Tutto questo non è il Dio vivente, ma davvero una statua, arida e muta. Occorre allora rendersi di nuovo fanciulli, riacquistare la mente semplice di quel bambino pieno di saggezza e sancire di nuovo la discesa della grazia su di noi. Un nuovo battesimo che ci renda ancora partecipi del beneficio di Cristo. Con questa rinnovata certezza non possiamo temere di professare la vera fede, anche contro l'ipocrisia dei tribunali degli uomini corrotti. Ecco perché vi dico che, se mai qualcuno chiederà chi vi ha parlato in questo modo, non temete di dirgli che sono stato io, Tiziano il Battista.